avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Quanti problemi vi fate a girare per strada da soli o a girare in mezzo alla folla? Quanto avete paura che qualcuno vi aggredisca? Ma mi sembra di capire che questo timore, che poi è variabile da individuo a individuo, da strada a strada, da città a città, da fattispecie estetica a fattispecie estetica, se voi siete un grasso e anziano signore, probabilmente avete meno paura di andare per strada piuttosto che siate un avvenente signore. Ma al di là di questo, in effetti, sembra che comunque il problema sicurezza è uno di quei problemi che puntualmente riemerge quando alcuni episodi di cronaca vengono messi in relazione. Improvvisamente la gente dice: ah, che pericolo, non è più come una volta, le nostre strade non sono più sicure, quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sono le 20 circa quando Cristiano Mennoni, 33 anni, pregiudicato con vari problemi per droga, si avvicina con un'auto rubata alla coppia in via Sarnano, nel quartiere San Basilio, nella periferia della capitale. Scippa la borsa alla signora e scappa via, ma finisce in un vicolo cieco, fa retromarcia e travolge Lupparelli, che lo ha raggiunto. Agli investigatori dirà poi che non si era accorto di averlo investito. Nell'ultimo mese aveva colpito almeno altre 8 volte. Per Luigi Saccullo Russello, pregiudicato di 31 anni e presunto responsabile dello scippo che ha portato alla morte di un'anziana donna, è stato arrestato nella notte mentre rientrava nella sua abitazione di Desio. In casa aveva ancora la borsetta della pensionata. Sono due episodi che abbiamo preso questa mattina tra gli ultimi che hanno avuto l'onore delle cronache, ma qualche giornale aperto questa mattina, vedo la foto sul Corriere della Sera di un ragazzo con la testa fasciata. Sono due ragazzi presi a criccate da un Umarell di 50 anni, Umarell più giovane di me, comunque che si era irritato, che l'avevano sfiorato passando, gli hanno rigato l'automobile o qualcosa del genere. Quindi le strade sono, ahimè, abbastanza frequentate, come accade comunque in tutti i luoghi in cui la civilizzazione va pari passo con le particolari e pericolose mélange di persone che passano per le strade, che in realtà bisogna stare un po' attenti, o molto attenti o abbastanza attenti. Però rispetto alla microcriminalità organizzata, disorganizzata o casuale, e rispetto all'ipernervosismo esagerato, il criminale che galleggia in un essere umano apparentemente normale, occorre probabilmente avere qualche piccola istruzione per l'uso. Sì, perché a me mi sembra di aver capito e letto, facendo una rapida analisi di alcuni siti specializzati che promettono tecniche di salvezza per ogni circostanza pericolosa, attrezzi e marchingegni fantastici di cui vi darò ampia informazione in questa puntata, che comincia a emergere una sorta di desiderio di fai da te, di difendersi da soli. In certi casi allarga il cuore e dice: ah, finalmente la gente solidale. Sono due gli episodi che metto in relazione. Nella metropolitana di Milano, il 20 settembre, un tale scippa una signora di 43 anni, nella borsetta aveva soltanto pochi spiccioli, comunque dentro il convoglio della metropolitana, invece che la solita indifferenza, tutti fanno finta di guardare il giornale, fanno finta di nulla, gli altri passeggeri lo hanno bloccato e hanno chiamato la polizia. Quindi è un episodio che si è risolto in maniera incruenta e anche positiva. Ancora più divertente e simile a questo episodio è quello che è accaduto a Roma esattamente 2 giorni dopo, quartiere Monte Mario. Un uomo scippa una signora anziana, le ruba la catenina e si mette a correre per strada. Un gruppo di signore che stava lì improvvisamente si mette a inseguirlo. Uno addirittura gli sguinzaglia il cane dietro, lo prendono, gli saltano addosso, lo bloccano, chiamano la polizia. Poi questo aveva in tasca un coltello a serramanico, quindi era anche abbastanza pericoloso. Ma l'improvvisa reazione, il fatto che comunque anche il cittadino che normalmente è inerme, indifferente o peggio ancora gira la faccia all'altra parte fin di non aver visto nulla, ha avuto un abbozzo di reazione. Ecco, quali sono i limiti della reazione possibile? Quando è possibile reagire? Quando è bene reagire? Quando è meglio in realtà prendere e fuggire? Questa mattina di questo vorremmo parlare, e vorremmo che tutti quelli che stanno in ascolto, so che abbiamo oltre che una popolazione di esperti, commissari tecnici che sanno tutto sul calcio, sanno tutto anche sulla difesa. Ieri avevo messo in rete qualche mia riflessione riflessione su questo fatto, mi hanno scritto tantissime persone. Io ho fatto questa scuola fantastica, io ho studiato quest'altra arte marziale, io posso dirti questo, io posso dirti quest'altro. Beh, questa mattina, se abbiamo espertoni che possono dirci come comportarsi in queste occasioni, aspettiamo che chiamino all'800 24 0024. Allarme da borsetta. Pratico e leggero, pesa solamente 60 grammi. Assomiglia a un telefono palmare e può essere applicato su qualsiasi borsa o tenuto semplicemente in borsa. In caso di aggressione, basta tirare la catena inferiore fino a far uscire il perno per scatenare un urlo terrificante di ben 130 decibel che segnala a distanza la situazione di pericolo. Come avrei fatto ascoltare la rassegna? Questo è il risultato del mio spulciare in rete alla domanda difesa da strada, tecniche di difesa, come difendersi da soli e via dicendo. Sono due filoni che ho analizzato. L'uno è questo degli oggetti, marchingegno. Questo allarme alla borsetta è una specie di cuore di plastica con una cordicella. Se ti portano via la borsetta, il cuore comincia a mugolare, a piangere, a fare un suono da sirena, e quindi probabilmente qualcuno dovrebbe essere avvertito, anche se ho visto molti antifurti di auto suonare per ore nelle strade e nessuno è mai intervenuto. Però comunque questo è venduto, ma non soltanto questo. Dissuasore elettronico. Funziona per contatto e trasmette una scarica da 200.000 volt che mette a terra l'aggressore per una decina di minuti senza provocare danni permanenti. È permesso solo a maggiorenni. Dicono che sia anche un valido deterrente visto a distanza. Esiste anche una giacca no contact che si elettrifica se si è aggrediti. Si vede molto nei film polizieschi, ma anche i nostri vigilantes che fanno la guardia al supermercato lo stentano molte volte insieme all'inutile pistolone che hanno, senza aver mai fatto un giorno di poligono di tiro. Molto spesso lo dico perché le Iene ha fatto un'inchiesta in questa direzione. È un attrezzo che fa una scarica elettrica non nociva, ma capace di, dicono almeno, di mettere fuori uso un aggressore. Però se l'aggressore è bello corpulento e bello robusto, probabilmente gli fa un baffo. Assieme a questi oggetti tecnologici poi ci sono le scuole di difesa, ma ho visto di tutto. È un po' come la cucina fusion, ci sono tecniche di difesa che vengono da tutto il mondo perché l'esotico probabilmente sembra più efficace. Ho letto di corsi di 6 giorni che insegnano a difendersi dall'attacco al coltello e anche dall'attacco dalla pistola. Tecniche segrete dell'esercito israeliano che permettono di sgominare qualsiasi avversario. Tecniche filippine, insegnamenti intensivi. Un'altra tecnica che è specializzata nell'infierire sull'avversario una volta che a terra e quindi distruggerlo, farlo a pezzi. Beh, quanto questo è efficace? 800 24 0024. Abbiamo in studio una persona che può darci qualche istruzione o perlomeno qualche consiglio, perlomeno delle massime di saggezza. Paola De Caro, buongiorno. Buongiorno. Paola De Caro è una ragazza dall'aspetto tutt'altro che aggressivo, posso dirlo, dal fisico da bambina, quindi non è quella persona corpulenta, nerboruta, capace di incutere timore, però è Sifu della scuola di Wing Chun Giunca Rossa, quindi è maestro al massimo livello di una tecnica, di una scuola di Kung Fu che nasce, mi sembra, proprio inventata da una monaca buddista. Sì, in Cina la leggenda vuole che sia stata inventata da una monaca. In realtà non si sa neanche se sia vero, ma è comunque una simbologia per intendere che è un'arte marziale pensata per i deboli contro i forti. Ecco, diciamo, aveva necessità queste suore buddiste di salvaguardarsi dai predoni che passavano e le aggredivano, hanno messo a punto una tecnica che risolverebbe perlomeno in teoria quello che è il nostro problema. Una persona apparentemente inerme, gracile, può essere capace comunque di risolvere alcune situazioni. A te mai capitato? Sì, purtroppo a me è capitato, ahimè, anche più di una volta, e devo dire che è andato tutto bene. Io, riagganciandomi un attimo a quello che ti ho sentito dire prima, però vorrei mettere un attimino in guardia chi sta ascoltando la trasmissione da queste soluzioni apparentemente semplici, i corsi di 6 giorni, piuttosto. Io lo sto dicendo con ironia, penso le che strumentazioni si capisca. Una cosa che si tende a dimenticare è che ci vuole un'enorme preparazione, ancor prima che tecnica e fisica, psicologica. L'aggressione, che sia per strada o ancor più nell'ambiente familiare, è una situazione diversa dall'incontro di boxe, per cui io esco di casa sapendo che sto andando a combattere, è qualcosa che in un attimo ti porta a passare da uno stato di serenità, tranquillità della tua vita all'inferno. E quali sono i sintomi di quando sei aggredita, Paola? Tanto cominciamo per capire, no, perché dobbiamo proprio ricostruire, perché è facile dirlo, ci sono persone molto sicure di sé, ti porti lo spray al peperoncino, lo faremo sentire. Io per esperienza ti posso dire, si perde totalmente la lucidità. Quindi tutto quello che richiede un ragionamento, un andarsi a ricordare in quale tasca della borsetta ho lo spray al peperoncino, eccetera, eccetera, non funziona, perché è veramente un annebbiarsi completamente della mente. Quindi o uno ha nel corpo una capacità di reagire acquisita con impegno, con pratica e con tempo dedicato a questa cosa, oppure difficilmente queste quindi cose prima non... di lavorare sulla tecnica di difesa, di offesa o sull'uso dell'arma propria e impropria, poi entreremo nello specifico, diremo, perché tutti questi oggetti che si vendono, molti sono anche proibiti, si rischia di essere arrestati se si gira con un attrezzo che fa scariche elettriche senza essere autorizzati, c'è anche questo da dire, sì. Bisogna lavorare sulla propria emotività, sulla capacità di controllare l'emotività in quel momento particolare. Sai, fondamentalmente si ha normalmente paura di quello che non si conosce, non si sa come gestire, quindi il primo passo è cercare di cominciare a ragionare su che cos'è un'aggressione, come avviene, e cominciare a entrare nell'ordine di idee che può capitarci, perché poi se no, se uno non ci ha mai pensato tutta la vita, va bene, puoi avere dentro la borsetta tutti gli spray, i taser di questo mondo, ma non saresti comunque poi, diciamo un'altra usarli. Cosa, lo ricordo per reminiscenze fanciullesche, inferire un attacco doloroso nel corpo di un essere umano, se uno non è proprio abituato, che l'ha sempre fatto per tutta la vita, non è una cosa semplice, anche se uno ti aggredisce. Il fatto di fargli del male non è così immediato per chiunque. No, assolutamente, ed è comunque traumatizzante. Io ricordo la prima volta che mi è successo di difendermi da un'aggressione, è stato tanti anni fa. E come accadde? Un tentativo di scippo in zona stazione Termini a Roma. E non mi chiedere che cosa hai fatto, perché veramente io non ho memoria, so soltanto che sono stata alla fine fermata dalla gente perché lo stavo massacrando, questo scippatore, cosa di cui sinceramente non vado fiera, me ne giustifico, perché ero molto giovane ed era poco tempo che praticavo. E quello che ricordo è che dopo io mi sono sentita quasi in colpa nell'aver fatto male ad una persona. Sì, se una persona comunque normalmente civilizzata prova disgusto nell'inferire colpi a una persona. E ho dovuto fare un grosso sforzo poi di razionalizzazione, di dirmi ok, era uno scippatore, magari ieri aveva mandato all'ospedale una vecchietta nello stesso modo, per poi riuscire a calmarmi e dire no, ho fatto bene a fare quello che ho fatto. Sì, perché si legge soltanto nei manuali, senti l'odore del sangue, l'adrenalina, l'odore del sangue in un'altra persona è fastidioso. Non è così immediato. Sentiamo qualche ascoltatore, già sono tantissimi a telefonare. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, la mia testimonianza è che io ho fermato uno scippatore e è successo a Firenze ormai molti anni fa, e chiaramente era a pochi metri da me, quindi io ebbi modo di assistere proprio allo scippo di una borsetta, c'erano due ragazze francesi, la rincorsa, lo bloccai per terra, però il problema per cui io sconsiglio queste cose e che poi arrivò il complice, tornò indietro in motorino e incominciò a minacciarmi verbalmente, e per fortuna rimase una minaccia verbale e rimasi abbastanza scioccato, perché nessuno si fermava a darmi una mano, le macchine passavano e quindi l'episodio fu molto molto brutto. Cioè lei si è sentito come un cretino, con un coatto per terra che teneva fermo, l'altro col motorino che la minacciava e sì, nessuno, esatto, che dava una mano e niente. No, niente. E poi per fortuna arrivò mia moglie, chiamò i carabinieri, però questo in modo spavaldo rimase lì quasi 10 minuti, un quarto d'ora a minacciarmi, e io a insistere dicendo vattene via perché si mette male anche per te. Poi comunque arrivarono i carabinieri, fra l'altro, come ormai è di consueto, conoscevano benissimo i due soggetti, e quindi anche lì rimasti un attimo, insomma, un po'. Quindi così c'è anche da riflettere su questo aspetto logistico, che si va a mettere le mani in un modello di vita che normalmente una persona non frequenta, quindi avere a che fare con persone che vivono borderline, bisogna conoscere anche i loro linguaggi, il loro modo di comportarsi, essere all'altezza della situazione, non è così immediato, non è uno che prende e butti per terra. Grazie Adriano. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io giusto ricollegandomi alla telefonata precedente di Adriano, volevo sottolineare il fatto che è importante evitare alcune situazioni, come l'ascoltatrice di prima che l'ho vista un po' esaltata nei suoi comportamenti di violenza, di... È un maestro di arti marziali, non era esaltata. Sì, sì, ha detto ma, me ne vergogno, ma ha fatto quello che in quel momento si sentiva di fare per difendere la propria esistenza. Siamo d'accordo, ha perfettamente ragione. In quei momenti avrei agito anch'io così. Sì, ma è una ragazza che peserà 50 kg scarse, non è che sta parlando di... si difende come può... Però è meglio evitare certi tipi di situazioni. Ma quando uno ti salta addosso come lo eviti, scusa? Sì, è giusto uno che si difenda, però non far passare il messaggio di reagire con violenza. No, non l'ha fatto passare questo messaggio, scusi Paolo De Caro, sì, rispondi. Infatti mi chiedevo in quale parte del mio discorso sia passato questo messaggio. Ho dovuto massacrare la persona. No, ho dovuto. Hai detto esattamente il contrario. Probabilmente non mi sono spiegata bene. Io ho detto esattamente il contrario. Ho detto che siccome ero molto giovane e inesperta, è successo che io gli abbia fatto molto male. E ho detto anche che poi me ne sono vergognata e che sono stata traumatizzata dall'avergli fatto molto male. Oggi non accadrebbe una cosa del genere. Adesso sono quasi 20 anni che pratico l'arte marziale che tra l'altro insegno, e sono assolutamente certa che sarei in grado di avere una reazione molto più controllata. Quindi probabilmente non mi ero spiegata bene. E ovviamente evitare alcune, di far passare messaggi di io vado Ma non ne so di questo messaggio, secondo me ha capito solo lei. Arti marziali per cui potermi difendere. Ma guardi che le lezioni di arti marziali non servono per andare in giro a picchiare la gente, semmai servono proprio per evitare di picchiare la gente. Appunto, è quello che io volevo dire, che è meglio evitare. Ma abbiamo detto all'inizio, guardi, il senso di questa trasmissione è proprio questo, di sfatare il mito che basti andare in una palestra e uno sta sicuro, quando bisogna lavorare in realtà sull'analisi del territorio, sulle condizioni psicologiche personali della persona che ci aggredisce. È un discorso abbastanza complesso, questo stiamo facendo. Cristiana. Pronto? Eccomi. Buongiorno a tutti. Volevo solo aggiungere qualcosa e confermare la teoria di Paolo, perché io sono stata aggredita alla metropolitana e sono stata buttata per terra perché volevano scipparmi. E nessuno interveniva, nonostante io gridassi aiuto, mi ingassavano le macchine vicino perché stavo su un marciapiede dove c'erano parecchie macchine, una strada ad alto scorrimento. Questo è il quadro più banalmente usuale, nessuno esatto. Si muove. Dopodiché mi hanno salvato due ragazze giovanissime, avranno avuto 20 anni, con la macchina, che hanno avuto il coraggio di puntare i fari contro questo, perché era un uomo, e gli hanno suonato il clacson, si è spaventato e scappato, e mi hanno salvato. Dopodiché io ho fatto un corso di difesa personale che mi ha aiutato e mi ha insegnato ad evitare le situazioni pericolose, non a combattere. Era la stessa cosa che volevo dire io, nel senso che questo corso ti aiuta ad acquisire una sicurezza diversa. Innanzitutto ti insegnano a guardarti sempre intorno, a non camminare. Loro puntano alla persona distratta, che sta al telefono, che si vede che pensa ai fatti suoi, magari con le cuffiette dell'iPod, che sente la musica, quindi non è attenta a quello che accade intorno. Invece ti insegnano innanzitutto a guardarti sempre intorno, se c'è qualcuno che ti segue, di guardarlo fisso negli occhi per fargli capire che hai capito la situazione. E vedrai che quella persona cercherà un'altra preda. Adesso non è che si augura che qualcun altro sia aggredito, però sicuramente si acquisisce un atteggiamento di sicurezza che è diverso dal solito, diverso dal normale. Allora guardi, Cristiana, io devo dare la linea alle informazioni della borsa, soltanto un istante ci fermiamo, perché Paolo De Caro, vedevo che annuiva, è esattamente quello che penso che lei insegni nella sua scuola: analisi del territorio, non essere distratti e soprattutto evitare di vivere immersi nella propria bolla di musica, di pensieri, di attenzioni. Per strada bisogna guardarsi intorno. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Telesoccorso elettronico GPS. Sistema di telesoccorso elettronico satellitare che incorpora un sistema GSM dual band e un GPS. La segnalazione di una situazione di pericolo viene attivata tramite la semplice pressione contemporanea di due tasti posti ai lati del dispositivo, evitando così il rischio di falsi allarmi alla centrale. Quando attivato, è in grado di lanciare un allarme a numeri di telefono di specifici servizi di soccorso, fornendo informazioni sul luogo geografico di provenienza della chiamata. 800 24 00 24, difendersi da soli, stare attenti, cosa fare. Viviamo nella giungla urbana e quindi dobbiamo comunque prendere dei provvedimenti. E ci sono provvedimenti di tutti i tipi, abbiamo già in parte smitizzato e depotenziato le scuole che promettono che in 5 giorni ci insegnano a difenderci dal coltello, dalla pistola o a distruggere un avversario. Abbiamo capito che le tecniche di difesa funzionano se prima c'è un'accurata introspezione e analisi su se stessi, sul territorio dove si vive. Mi scrivono tante ascoltatrici in questo momento su Facebook dicendo che la cosa più semplice, non c'è nessun problema, se una bella ginocchiata o chi un pugno o chi una gomitata nelle parti sensibili dell'uomo, il problema è risolto. Beh, prima cosa è trovare uomini che ancora ne posseggano, già abbastanza raro. Secondo, arrivarci non è poi, vi assicuro, così immediato per tutti. Abbiamo in studio Paolo De Caro, che è Sifu, quindi insegnante, maestro di Wing Chun per la scuola Giunca Rossa di Roma, che ci sta, si sta prendendo appunti rispetto a quello che ha detto l'ultima ascoltatrice, che mi sembrava fondamentale. Sì, era un intervento che ho apprezzato moltissimo. Ringrazio Cristiana, che è una persona che evidentemente deve aver avuto anche dei buoni insegnanti. E il discorso che faceva lei è giustissimo, cioè gli aggressori, le vittime le scelgono. E credo sia una cosa abbastanza istintiva, e avere la consapevolezza di sapersi difendere ci rende automaticamente non vittime agli occhi di un potenziale aggressore. Visto che tu prima citavi le Iene, io ho visto una volta un'interessantissima intervista ad uno stupratore fatta dalle Iene, e mi colpì proprio questa cosa, che quando gli chiesero perché proprio quella donna e non un'altra, lo stupratore rispose: perché avevo capito che se l'avessi spaventata avrebbe fatto tutto quello che volevo io. Quindi è molto importante acquisire la sicurezza, che ovviamente si acquisisce nel momento in cui uno sa di avere i mezzi per potersi eventualmente difendere, perché già avere questa consapevolezza porta ad essere meno facilmente identificati come vittime. Allora, vediamo se puoi dare qualche istruzione concreta, ripartendo proprio dalla telefonata di quella signora prima. Lei diceva: per strada non siate distratti, non tenete le cuffie. Assolutamente no, bisogna avere una soglia di attenzione molto alta, soprattutto in alcune circostanze. Se torno a casa la sera molto tardi, sono da sola, magari devo parcheggiare in una zona isolata eccetera, è chiaro che non è il momento di avere la musica nelle orecchie o avere la testa immersa nei miei pensieri. Ci sono delle circostanze in cui bisogna imparare a guardarsi intorno, a percepire eventuali segnali di pericolo, a guardare gli altri, perché comunque siamo, vuoi non vuoi, comunque degli animali, abbiamo tutta una metacomunicazione che dovremmo imparare a conoscere e capire. Quindi l'aggressore qualche segno in realtà lo lancia, sì, prima di aggredire? Sempre, sempre, assolutamente sempre. Attacchi nelle metropolitane, il famoso scippo che si fa normalmente nei vagoni. Io vedo tante volte, ho salvato molte signore, devo dire, perché io ho una mia tecnica personale: entro sempre nell'ultimo vagone, mi metto con le spalle contro la porta del guidatore, poi guardo la situazione e vedo spesso persone attaccate al palo come se facessero la lap dance e non si accorgono chi gli sta ravanando nella borsetta. Ma perché la gente ha una soglia di attenzione molto bassa. Anche un'altra sciocchezza: se uno cammina lungo un marciapiede, una donna, è bene che tenga la borsa dal lato del muro, delle pareti del palazzo, e non dal lato strada dove può passare uno con un motorino e portartela via, voglio dire. È una banalità, però moltissime donne non ci pensano neanche. Sentiamo Alfonso. Alfonso, buongiorno. Sì, buongiorno. Scusatemi per prima, ma sono nella giungla di milanese del traffico. Non vorrei adesso che fosse scippato perché sta al telefono con noi. No. Allora, anche a me mi è successo un fatto del genere in un parcheggio, scusate l'affanno ma sto camminando a piedi, un parcheggio di un supermercato con la mia famiglia, due balordi mi stavano aggredendo, insomma, sono riuscito a farla franca, ma non avendo una tecnica di arti marziali o di autodifesa. Ma erano armati e l'hanno minacciato? No, mi hanno proprio picchiato, mi sono anche difeso. Quando metteva la spesa dentro il bagagliaio? Esatto, è un classico. Esatto. A quel punto mi sono sentito una M, perché c'era la mia famiglia terrorizzata. Lei non ha potuto fare nulla, non ha fatto nessun tipo di reazione, ha preso le botte? No, io ho reagito, ma ho reagito anche sconclusionato, insomma, con la lucidità, come dice il maestro, venendomi a mancare, insomma. Tenga presente che avevo la mia famiglia e l'avrei difesa a tutti i costi, e quindi cosa che ho fatto? A quel punto, pronto? Sì, la sto ascoltando. A quel punto ho riflettuto, sono attaccato, ho riflettuto tutta la sera, ho chiamato un mio amico che ha un'agenzia di guardie del corpo e mi sono fatto mettere in contatto con il loro personal trainer, che è un ivoriano, che è il settimo dan di Shoe Box. Vabbè, ci perdiamo nelle difficoltà. Comunque è uno che sa il fatto suo. E cosa le ha insegnato questo ivoriano? Da un anno a questa parte sto facendo shoebox e mi sento molto molto molto più sicuro di me. Non vado in giro a fare Bruce Lee, non vado in giro a fare il giustiziere della notte, ma sono molto molto più sicuro. Ed è anche vero quello che state dicendo voi: non si può imparare in una settimana come affrontare uno col coltello e con la pistola. Io ci ho messo 3 mesi per capire come tirare via il coltello a una persona, simulando appunto il combattimento. Io, se posso darle un consiglio, non ci proverei comunque. Paola De Caro, di fronte a un coltello cosa si fa? Ma di fronte a un coltello, se mi stanno chiedendo il portafoglio, tendenzialmente glielo do. È chiaro che se devo difendere i miei figli, io non ho figli, ma comunque i miei nipoti, allora il discorso è diverso. È vero che io sono 20 anni che pratico, quindi, però dopo 3 mesi, non lo so, certo mi rendo conto che un padre che deve difendere i figli sia disposto a tutto, e quindi giustamente trovo comunque molto saggio. Guarda, un padre che difende i figli fa scudo umano ai figli, infatti, non si pone il problema. Infatti. Solo che pensare che disarmare un coltello è una cosa abbastanza complicata. Una persona da un coltello, soprattutto dopo 3 mesi, trovo che sia altamente improbabile, però trovo molto giusto l'atteggiamento di questa persona, che Alfonso mi pare, sì, che giustamente si è posto il problema di trovare una soluzione, perché mi rendo conto che poi tutti quanti, poi nel momento in cui gli capita, nessuno si, non capisco perché non si faccia un po' di prevenzione, non ci si organizzi prima. Sì, quando capita prima, comincia a battere il cuore, va via il respiro, si blocca le mani, si annebbia la vista, si perdono i contorni dell'area visiva, accadono delle cose che non ci immaginiamo nemmeno. Ci sono dei processi fisiologici precisi per cui si tremano le ginocchia, che uno non se ne accorge perché a volte se la fanno proprio addosso fisicamente, non è una battuta. Avvengono dei mutamenti a livello fisiologico, ormonali, per cui succedono tutta una serie di cose, tipo la visione a tunnel di cui tu adesso stavi parlando. Non vedi più i contorni, vedi solo qualcosa al centro. Ma tutte queste cose però, se vengono conosciute, addestrate prima, possono addirittura essere sfruttate a proprio vantaggio. Sentiamo Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Abbassi la radio che sento un po' di riverbero. Sì, abbassato. Eccomi. Buongiorno. Niente, io sono completamente d'accordo con il vostro ospite, anche perché, come ho detto al centralinista, io sono un istruttore e un maestro di arti marziali e difesa personale, e il messaggio che sta passando è proprio perfetto, è proprio quello che io speravo che passasse. L'unico problema che sollevo io è questo, che anche noi quando facciamo i corsi diamo prevalentemente l'importanza appunto al discorso della prevenzione, dell'attenzione, della percezione sempre dello spazio dove uno si trova e l'attenzione. E però purtroppo i corsi dove in 3 mesi, in 4 mesi ti insegnano o dicono insomma che ti insegnano a togliere un coltello o a... sono molto più frequentati, perché la gente non crede che con una prevenzione, diciamo così, solo sull'attenzione si possa già fare un grosso lavoro, ma pensa che si debba per forza arrivare alla difesa, e che quindi in 4-5 mesi, 6 mesi, quello che è, sicuramente quel corso sia più vantaggioso di invece affrontare un corso che lavora solo sul piano, diciamo, prevalentemente psicologico. Ma sai, qui valgono a quei corsi, dicono conosci te stesso, 5 tecniche per acquisire sicurezza, che fanno questa sorta di analisi del profondo a dispense. Paola De Caro. Ma innanzitutto io volevo dire, sono d'accordo, però il problema è che non si può lavorare solo su un discorso psicologico di prevenzione eccetera, cioè sono entrambe le cose. Bisogna avere un addestramento mentale sicuramente, che deve essere però supportato dalla tecnica e dalla capacità poi effettiva all'occorrenza di fare un intervento fisico determinante. Cioè l'impatto fisico è qualcosa da mettere in considerazione. Adesso io approfitto della diretta per dire una cosa assolutamente impopolare, però la dico, cioè i corsi di 3-4 mesi, la verità è che sono delle truffe. Certo. Mi sembra logico, ma scusatemi, oramai l'ho detto. Varrebbe anche per le lingue che si apprendono velocissimamente, vale per qualsiasi cosa, dicono si fa intensiva, va bene, ma è un'infarinatura. Sentiamo Caterina, però interessante Caterina. Caterina. Pronto, buongiorno. Lei ha scelto un'altra strada. Sì, no, a me è capitato un episodio che poi vi racconto, ma comunque volevo dirvi che sono assolutamente d'accordo su questa, come dire, critica delle, non solo dei corsi brevi, ma secondo me anche degli oggetti, dei gadget che sono più pericolosi che anche utili. No, anche perché si dà un'arma in mano a un aggressore a mani nude, esatto, se uno va lì, cioè, e tira fuori lo sfollagente a molla, ricordo, o il cacciavite nascosto, gli dai, esatto, anche un'arma. Infatti mai, secondo me, aumentare il livello di scontro. Mi dica la sua tecnica di arte marziale di difesa, Paola, perché mi interessa. No, ma io non ero una tecnica di arte marziale, molti anni fa. È la tecnica francescana, dice, fratello, esatto, perché vuoi farmi male? Ero a Venezia e tornavo a casa dopo aver accompagnato delle persone. Venezia d'inverno, di notte alle 10:30 di sera, è il deserto del Sahara. E a un certo punto mi sembrava che ci fosse una persona che faceva un po' troppo la mia strada e quindi ero già un po' in allarme. Sono arrivata vicino al mio albergo, che però era chiuso perché bisognava suonare. E lì vicino c'erano delle persone che lavoravano. A quel punto io ho provato a, con cui stavo lavorando io, mi sono spostata sull'angolo per vedere se c'era qualcuno e cosa fare, da che parte suonare. Questa persona ha capito che io mi ero messa in allarme e mi ha detto, con la classica mano nell'impermeabile, cammina diritto davanti a te, sono armato. E cosa c'era sotto l'impermeabile? Come? Cosa c'era sotto l'impermeabile? Non lo so, nel senso che io a quel punto ho pensato, oh, doveva succedere anche a me, ma stranissimo, mi sono poi stupita di questa freddezza. E come hai reagito? E l'ho guardato negli occhi, ho visto questi occhi un po' da pazzo, e gli ho fatto il migliore dei miei sorrisi, e paradossalmente, senza rendermene conto, ho fatto anche un gesto con le mani per capire se secondo me c'era il peso nell'impermeabile o no, e secondo me non c'era. Cioè quel gesto fatto con il pollice e con l'indice roteati, come no, per dire... No, tu apri le braccia e scontri l'altro, per cui senti se c'è un'arma o non c'è, insomma. E che no? C'era? Ma magari ce l'aveva. Non ci lasci in apprensione, che c'era sotto l'impermeabile? Ma no, ce l'aveva in tasca la mano, nell'impermeabile non c'era niente. Ah. Cioè, c'aveva la beh, mano com'è in tasca, finita alla tipo... fine? È finita che io ho fatto un gran sorriso e gli ho detto, ma dai, io non posso, mi aspettano in albergo, vieni con me. E lui mi ha seguito come un cagnolino, dicendo devo nascondermi per 2 ore, devo nascondermi per 2 ore. Io ho aperto la porta dell'albergo, ho suonato, se l'hai portato, ho aperto in casa la porta e mi hanno detto, e lui a quel punto ha capito, cioè nella luce secondo me si è risvegliato, ha capito che era rimasto un po' così. L'ha vista un po' meglio, forse. Sì, forse ne ha visto un po' meglio. E quindi? E niente, ha detto, ha farfugliato, c'è una camera, io ho guardato la signora, lei gli ha detto di no, abbiamo chiuso la porta e lì hanno cominciato a tremarmi le gambe dalla paura, ma fino a quel momento no. E lì ho capito che è molto importante non entrare nel... cioè che la paura alimenta sostanzialmente. Mi sembra un episodio molto interessante, però devo segarla un istante che dobbiamo dare velocemente all'Ina le informazioni del traffico, poi riprendiamo con Paola De Caro. Melog 2.0. Spray civili al peperoncino. È una piccola bomboletta spray che spruzza un liquido il cui principio attivo è l'estratto naturale di peperoncino denominato oleoresin capsicum, con una concentrazione del 10%. Questa sostanza crea una momentanea irritazione sulla pelle e sulle mucose con cui viene a contatto. Ci sono modelli nuovissimi con capsule che lanciano getti ad alta pressione a notevole distanza. 800240024 con Paolo De Caro, Sifu di Wing Chun Scuola Giunca Rossa. Stiamo analizzando le testimonianze dei nostri ascoltatori. L'ultima ascoltatrice ha avuto una bella fortuna, diciamo, però è anche un caso abbastanza limitato. Stava davanti all'albergo, c'erano gli amici. In una strada isolata è un po' difficile tentare la via della familiarizzazione. È stata indiscutibilmente fortunata, è vero sempre che una reazione è comunque preferibile al panico, al bloccarsi, al dimostrare di essere terrorizzato. Forse voleva soltanto spaventarla. Certo, sicuramente ha avuto una gran fortuna. Sentiamo Paola ascoltatrice. Buongiorno. La sto ascoltando, Paola, sì. Ecco, dunque, io sono stata aggredita 2 volte e con mia grande sorpresa io reagisco. Non sono più giovane, sono alta 1,50, quindi non posso certo contare sulla mia forza per... Però io sono stata... Una volta un ragazzo mi ha rubato il Rolex, ma io ero seduto in macchina, lui ha aperto la portiera della macchina e io ho detto: Dio mio, mi tira fuori dalla macchina e mi ruba la macchina. Invece no, si è attaccato al mio polso, io avevo il suo viso vicino al mio e freddamente ho detto: gli metto le dita negli occhi. Però poi si vede che si nasce delinquente e non si può diventarle tutto in un attimo. No, non si può mettere le dita negli occhi. Gli l'ha messa nel naso? No, ho preso i capelli con i bambini, mi sono attaccata. A capelli ha fatto, che cattiva. Mi sono attaccata ai suoi capelli. Poteva andare di capoccia, scusi. No, potevo fare qualcosa di meglio, perché io ero seduta in macchina, lui in piedi, avevo una mano libera. Ah, voleva dire, cosa voleva fare? Voleva afferrarlo per le parti molli? Solo che ci ho pensato un mese dopo, è stata una reazione molto ricattata. Lì bisogna andare precisi, mica si può, non solo, bisogna mica stanno essere, aspettare. Ecco, ci ho pensato troppo tardi. Posso dire una cosa adesso, onestamente? Non vi illudete che sia poi così... Perché non è che sempre stanno a presa di mano, a portata di mano, sia così facile. Cioè, no, se uno ha dei pantaloni molto attillati e stretti, non prende nulla, capisce? No, ma io le dico un mese dopo, ci ho pensato. Quindi, no, mi sono attaccata ai capelli, lui è attaccato all'orologio, mi ha trascinato fuori dalla macchina. Chi ha vinto? E ne ha vinto lui, perché poi l'orologio a un certo punto, mi sembra giusto, no? Vabbè, l'orologio a un certo fine. Punto ha ceduto, io sono caduta perché ero squilibrata e mi sono rotta un dito, diciamo. Ma in quel caso, Paolo De Caro, era meglio lasciar perdere l'orologio, secondo me. Sì, secondo me sì, sarebbe stato meglio rinunciare all'orologio. Ha rischiato fratture multiple, però gli è rimasta questa idea, quello che avrebbe potuto fare. Però è anche vero che se caratterialmente una persona è una persona reattiva, è difficile anche. Ma mi ricordo, io nella metropolitana, pochi mesi fa, ho visto una situazione bellissima. Le solite zingarelle che una suona e l'altra stanno ravanando nello zainetto di un signore giapponese, che era un ragazzo. Lui è immobile, la sua fidanzata ha preso l'ombrello e ha cominciato a prendere le ombrellate. La si è salvata con l'ombrellato, un ombrellino corto così. Andiamo avanti, Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo così portare la mia testimonianza. Io qualche anno fa ero in vacanza in uno dei paesi più, diciamo, civili del mondo, in Danimarca. E a un certo punto, la sera prima, aggiungo questo per dire, probabilmente la nostra reazione è stata dovuta un po' di rabbia o anche di non dico di vendetta, perché proprio è stata una reazione immediata. Ci avevano rubato telecamera eccetera eccetera in albergo. Il giorno dopo, uscendo in bicicletta, io con la mia famiglia abbiamo sentito una signora gridare, una donna anziana, asiatica, e insomma ci siamo in bicicletta corsi lì eccetera, l'avevano scippata, l'avevano rubato il portafogli che aveva dentro pochissimo. Però quello che mi è così immediatamente saltato all'occhio è che, pur essendo in un paese civilissimo, nessuno è intervenuto. E io, diciamo, io e mia moglie e mio figlio abbiamo accerchiato questo ragazzo, così, e questo a un certo punto ha buttato via il portafogli, c'era dentro pochissimo, insomma, ecco. Però poi chiaramente a mente fredda si pensa irresponsabile, grande paura eccetera, però diciamo che per consolazione, diciamo che è stata un'azione coordinata, familiare, scomposta, emotivamente, sì, questo, giustificabile, certo. Però non razionalmente giustificabile, certo, soprattutto certo. Con un ragazzo, Paola. Certo, le dico l'ultimo appunto, poi per proprio sì. Così è stata una cosa bellissima che dopo 2 anni è arrivata una lettera di ringraziamenti dalla signora. Ah, meglio tardi che mai. Le azioni coordinate familiari, se non rispondono a un piano preciso, meglio lasciar perdere. Sì, diciamo che poi, cioè, sarebbe molto bello se questa solidarietà sociale fosse reale. E alcune persone, come abbiamo avuto diverse testimonianze, lo fanno. È vero che secondo me non si può contarci, cioè pensare che ci difenderanno gli altri. Poi se succede, tanto di guadagnato, ma diciamo che la buona regola è, comunque esiste sempre il dovere, la possibilità di cercare di avvertire il prima possibile le forze dell'ordine, sennò il fai da te non deve sostituire. Sì, diciamo realtà. Che a secondo del tipo di situazione, se si ha il tempo, viviamo per fortuna in un'epoca in cui abbiamo tutti un cellulare in tasca, uno magari tenendo d'occhio la situazione può cercare di chiamare la polizia. È che sono situazioni queste in cui si sa che, per quanto veloce l'intervento, non sarà mai risolutivo nell'atto in cui sta accadendo qualcosa. Il problema qualcosa. È quello. Siamo arrivati alla conclusione. Ci sono 30 secondi. Se Maria Grazia mi dice che ha bloccato una rapina con gli occhi, come ha fatto? Solo in 10 secondi. Maria Grazia dice che ha bloccato una rapina con gli occhi, come ha fatto? No, nel senso che mi sono resa conto che, dopo aver prelevato, che avevo una persona di dietro con le antenne, mi sono girata e l'ho guardato fisso. Era un mezzogiorno, una strada affollatissima di Palermo, marciapiede affollato, e questo ha girato i tacchi e se n'è andato. perché io i soldi li avevo all'interno della giacca, e come avrebbe potuto fare a togliermi con qualche coltello? Sono riuscita, sì, ha girato i tacchi e se n'è andato. Se avessi avuto il telefonino come ce l'ho adesso che faceva le foto, gli facevo le foto. Vabbè, lei con la supervista comunque ha messo in pratica quello che stiamo dicendo, ha affrontato seppur visivamente il suo aggressore. Grazie Paola De Caro, grazie a quanti hanno partecipato, istruttori compresi, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.